Questa è sempre la segreteria telefonica di Dedicato. Questa settimana siamo... Ma mi avete lasciata qui in studio? Momentaneamente assenti. Ma qualcuno... Ma c'è qualcuno qui dentro? C'è qualcuno che può venirmi a prendere? Momentaneamente assenti. E basta, segreteria telefonica! Questa è la segreteria telefonica ma di... Ma spacco! Dedicato, siamo momentaneamente assenti. Mi ha rotto. Yeah.

torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori e non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici. Ricorda di comprarmi dei calzini. Fai mettere le porche ai pantaloni. Ho il pullover e la giacca di pelle. Non ho freddo e sarò un ribelle. Va bene, non ho niente nella testa. Basta, sono un ribelle, l'ho deciso, e non mi importa di essere capito. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non sta svegliando la stanza. Questa è sempre la segreteria telefonica di Dedicato. Vi abbiamo fatto ascoltare la nostra musica dagli Europe agli Schiantos, da Vasco Rossi a Loredana Bertè, i Little Big e i Nirvana. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!